Voi siete il signor Van Gogh, non è vero? Non dipinge. Questo luogo trascende la realtà. Metti da parte l'assio, ora stai col fango. Non ti giudicherò quando sarai sporca e serva. Per me è normale, come Basquiat vorrei volare con te. In questa metropolitana, cielo mare. Vedremo le spiagge di cemento a disegnare tra le nuvole. Senza tornare, senza più tornare. Van Gogh, l'angelo del mare. Van Gogh, nella testa sale. Oppio al sapore di mare. Magic pill, painkiller nelle tasche. E giù a disegnare, e giù a disegnare. Van Gogh, l'angelo del male. Ehi, hey, look at Van Gogh, he's a fucking silly crazy people. Ehi, hey, Van Gogh is a genius, man. Ok? Don't die, Van Gogh is a damn painter. He's a damn painter. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Oppio al sapore di mare. Magic pill, painkiller nelle tasche. E giù a disegnare. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Van Gogh, l'angelo del male. Se potessimo anche solo vederci, ti vorrei portare in un mondo immaginario. Non dovremmo più tornare. Saremo come il sole, la luna e l'eclissi. E il mondo ci vorrà ricordare come un amore rivoluzionario. Petali sparsi intorno a rivelazioni del nuovo mondo. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Oppio al sapore di mare. Magic pill, painkiller nelle tasche. E giù a disegnare. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Metti da parte l'astio, ora stai col fango. Non ti giudicherò quando sarai serva e sporca. Per me è normale, come Basquiat vorrei volare con te. In questo metropolitano cielo mare. Vedremo le spiagge di cemento disegnare tra le nuvole. Senza più tornare. Come Basquiat. Come Basquiat. Come Basquiat. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Oppio al sapore di mare. Magic pain, pill killer nelle tasche. E giù a disegnare. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Van Gogh, l'angelo del male. Van Gogh nella testa sale. Van Gogh, l'angelo del male. Un paesaggio pittoresco non fa mai un dipinto. Se ti concentri ed osservi, tutto della natura ha la sua bellezza. E in quella bellezza naturale, io mi perdo dentro.